Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico finanziaria, parleremo chiaramente di banche, anche perché questa è la settimana poi che si concluderà venerdì alle 23 con il alle 22 scusatemi con la pubblicazione degli stress test, e quindi da questo punto di vista già anticipammo la scorsa settimana che per alcune banche italiane sarebbe stata una settimana di passione. Una su tutte, il Monte dei Paschi, non è certo un mistero. Oggi ha avuto difficoltà anche a fare prezzo, il titolo in borsa, in questo momento sta perdendo, ultimo dato, l'8,90%, però a 28 centesimi di euro per azione. Male anche Saipem, nulla c'entra con gli stress test chiaramente, meno 5%, CNH Industrial meno 2,80, poi alcuni titoli bancari, Popolare Emilia Romagna meno 2,40, come la Pop Milano, Intesa San Paolo meno 1,60, anche Eni perde l'1,60%. Dicevo, è un elemento di tensione, sono 5 le banche italiane coinvolte negli stress test, però solo Monte dei Paschi avrebbe ottenuto una classifica deludente, bruciando gran parte, diciamo, del set one attuale nelle simulazioni di scenario avverso, cioè la situazione di peggiore, di recessione in continuazione. Le altre quattro avrebbero, che sono Intesa San Paolo, Banco Popolare, UbiBank e UniCredit, avrebbero comunque avuto un esito positivo. Ne parleremo perché qualche indiscrezione c'è già, ma soprattutto il tema, il nodo del Monte dei Paschi, che sta lavorando a un piano di cessione di crediti in sofferenza da 10 miliardi, quello che ha chiesto la Banca Centrale Europea nei prossimi 3 anni, ma conseguentemente anche l'aumento di capitale, perché se tu cedi le sofferenze a un livello più basso, come è straprobabile, di quello che le hai in bilancio, sono perdite in più e ti si abbassa il patrimonio, o meglio, aumentano le perdite, e quindi devi aumentare il patrimonio sulla base dei criteri europei. Dicevo, le altre banche stanno in discrezione, si posizionerebbero bene al di sopra del livello minimo consentito, e parleremo di questo. Qual è lo scenario più sfavorevole? C'è il calo, un crollo, una nuova, diciamo, crisi come quella del 2008 nel periodo 2016-2018, con addirittura un taglio dei titoli di Stato governativi, un crollo tutto assieme di prezzi degli immobili residenziali e commerciali. Questo è lo scenario peggiore, e vanno a guardare come reagirebbero le banche di fronte a questo scenario catastrofico. Ripeto la battuta, che è più che una battuta, fatta da vari osservatori: di fronte a uno scenario del genere il problema non sarebbero nemmeno più le banche, ma sarebbe la tenuta, diciamo, dell'economia italiana in questo caso stessa. Comunque, di questo parleremo. Parleremo anche di un'operazione gigante che non ha per oggetto l'Italia, ma mi riferisco all'operazione da quasi 5 miliardi di dollari con cui, dopo giorni di trattative, la società americana di comunicazione, un gigante delle telecomunicazioni, Verizon, ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per acquistare Yahoo. Quasi 5 miliardi, e Yahoo cambierà anche il suo nome. Per quello è una decisione importante, perché punterebbe, ma ne parleremo, a rompere il duopolio, da un lato Google e dall'altro Facebook, nella raccolta pubblicitaria online. E ripeto, anche di questo parleremo, così come torneremo sul tema del grano, che continua a far discutere. Grano inteso come grano, mais, non come soldi, non come il linguaggio colloquiale per i soldi, di quelli ci occupiamo tutti i giorni, perché continua la cosiddetta guerra del grano, cioè il prezzo che è crollato ai valori di 30 anni fa, 300.000 agricoltori che denunciano il rischio di chiudere, mentre questo non si vede nei prezzi del prodotto finale, prezzi di pane e pasta. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Make Gli altri titoli, intanto, c'è anche chi oggi è in positivo a Piazza Affari, più 2,20% Moncler, più 2% Campari, più 1,70% STMicroelectronics, più 1,50% Luxottica e Azimut e Ferragamo, Unipol Sai più 1,40%, Unipol più 1,3%, A2A più 1%. Ha ragione, grano non è mais, grano duro, grano tenero, era solo per distinguere, diciamo, il cereale, non i soldi. Ha ragione l'ascoltatore che mi corregge. Andiamo avanti invece. Per quello che riguarda il Giappone, oggi per la prima volta dal marzo del 2011 registra un attivo nella bilancia commerciale. È dal disastro di Fukushima, quindi dal marzo del 2011, e questo grazie soprattutto al calo delle quotazioni del greggio, e ha avuto un avanzo commerciale tra gennaio e giugno di 15 miliardi e mezzo di euro. Venendo all'Europa, invece, nel continuo botta e risposta tra Bruxelles e Londra, oggi il portavoce della Commissione Europea Margaritis Schinas ha fatto notare che tutto ciò che era stato offerto nel pacchetto molto vantaggioso offerto alla Gran Bretagna a febbraio non è più valido dopo l'esito del referendum, quindi tutto l'insieme di sconti e agevolazioni che la Gran Bretagna aveva ottenuto a febbraio e che poi comunque Cameron aveva voluto mettere a andare a verificare con il referendum non sono più valide, quindi è inutile fare riferimento alla qualcuno ha chiesto, ma è vero che Bruxelles sta considerando l'idea di dare 7 anni alla Gran Bretagna come periodo di transizione, e ha detto no, attenzione, tutti gli accordi già fatti a febbraio non valgono più. Ryanair ha chiuso il primo trimestre fiscale, quindi quello al 30 giugno, con un utile netto in rialzo del 4% a 256 milioni di euro. Tariffa media è calata per i biglietti di Ryanair del 10% a 39,92 euro e il traffico passeggeri è cresciuto dell'11% a 31 milioni di passeggeri trasportati. E Ryanair si lega anche alla Brexit, perché ha chiarito, dopo la diffusione dei dati sui primi 3 mesi, che non ha più intenzione di puntare solo sul suo hub, sull'aeroporto di Londra, che è quello di Stansted, ma di investire anche negli scali delle altre capitali europee. Il dato più positivo per quello che riguarda l'Italia, invece, ha a che fare con il mercato del mattone, perché continuano a crescere sia le compravendite sia i mutui. Questo nulla vuol dire in senso stretto sui prezzi del mattone, però è chiaro che a lungo andare, quando aumentano le compravendite e aumentano i mutui, un aumento dei prezzi a metro quadro si ha. Anche nei primi 3 mesi dell'anno la crescita delle compravendite è stata del 18% rispetto ai primi 3 mesi del 2015, e i mutui hanno fatto più 29,9%. Ne parleremo più avanti Padoan, lo facciamo sentire più avanti sul bail-in. Padoan ha escluso il bail-in sulle banche, lo ascoltiamo più avanti. Invece l'ultima notizia che voglio darvi è quella che riguarda uno dei settori più importanti del nostro Made in Italy, anche se fortemente penalizzato dal loro governo Monti. Mi riferisco alla nautica. Ce ne occupammo già a suo tempo e scoprimmo che dopo la crisi il 95% del fatturato ormai veniva fatto all'estero, mentre prima si era dimezzato il fatturato perché era scomparsa la componente italiana. Si è aperto il Salone Internazionale Nautico di Genova, o meglio, è stata presentata l'apertura del Salone Nautico di Genova, che sarà dal 20 al 25 settembre, 56esima edizione, e le iscrizioni al Salone Nautico sono cresciute del 21% rispetto allo scorso anno. Gli operatori parlano di un mercato in ripresa. Nel 2015 ricordo che il settore della nautica da diporto ha fatto più 12%, comunque nel 2016 dovrebbe fare un altro più 7,5%. Su questo settore della nostra industria si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, oggi a firma di Alessandro Praterotti, appunto vice direttore del Sole 24 Ore. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Il I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Dal 20 al 25 settembre prossimo ci sarà la 56esima edizione del Salone Nautico di Genova. Ma perché parliamo di nautica? Non soltanto perché è estate, perché un po' la paura del terrorismo ha, sotto questo punto di vista, se ce lo permettete, riavvicinato fortunatamente alle nostre coste, alle nostre spiagge, non solo i turisti ma anche le imbarcazioni, scomparse dall'epoca della paura delle ispezioni e soprattutto da un fisco che con Monti diventò sicuramente proibitivo tanto per i grandi quanto i piccoli proprietari di imbarcazioni. Il Salone di quest'anno si presenta sotto i migliori auspici, più 21% le presenze, più 7,5% il mercato della nautica, ma quando parliamo di mercato non è soltanto quello dei grandi yacht, ma è anche quello delle piccole imbarcazioni per la famiglia, per il diporto e per la pesca. Segnali importanti, se pensiamo che negli ultimi anni il settore aveva perso non soltanto fatturato e ricavi, ma anche occupazione e presenza internazionale. E invece quest'anno torneranno non solo gli espositori stranieri, i broker, i giornalisti, grazie a un accordo firmato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, Lucina, che è l'associazione del settore, e Licia, cioè portare compratori stranieri, verranno anche da Miami. Insomma, finalmente comincia a cambiare qualcosa nella nautica, dall'ottica dell'assistenza ai cantieri, ma soprattutto si passa a quella della promozione. Che fare guardando avanti? Molto positiva l'abolizione della tassa di stazionamento anche oltre i 14 metri, adesso il settore aspetta l'ultimo atto, un decreto che permetta di istituire il registro telematico delle imbarcazioni, non un'innovazione banale per la nautica, ma una cosa sostanziale per che darà certezza della proprietà a tutti quelli che si avvicinano alla nautica, ma hanno paura delle incertezze che esistono ancora in questo settore. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora andiamo avanti con il primo aspetto che trovate oggi nell'apertura del Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore del lunedì. Questa non è una posizione politica, una critica, un appoggio al governo, lasciamo stare queste cose a altri programmi o altri luoghi in cui si fa opinione. Qui vorremmo capire banalmente come scrive oggi in prima pagina sulle 24 ore concorrenza, giustizia e sanità, tutte le riforme in lista d'attesa. Per alcuni disegni di legge il dibattito prosegue da più di 3 anni. Ora c'è il disegno di legge quadro su i medici, gli infermieri, licenziato dalla Camera in prima lettura a fine gennaio, è da 1046 giorni che aspetta. C'è sulla giustizia il disegno di legge delega sul processo penale, già approvato alla Camera, anche qui aspetta da 580 giorni. Cito appunto i casi più clamorosi: il DDL concorrenza, approvato alla Camera lo scorso autunno, ancora fermo in Commissione Industria al Senato, è inciampato in continui rinvii, l'ultimo dei quali ha sancito che i lavori a Palazzo Dama riprenderanno solo dopo la pausa estiva. Ricordo che lì dentro c'è anche il tema delle RC auto. Però resta sullo sfondo, ripeto, lo dico non con vis polemica, l'idea che insomma il governo, uno può essere d'accordo o no con quello che ha fatto nel passato Renzi, però è innegabile che era partito lancia in resta. Penso alla riforma del Jobs Act, quella più nota, penso anche a altri temi che nulla hanno a che fare con questo programma, l'andare avanti sulle unioni civili, piuttosto che poi tutto, e la decontribuzione, invece qui torniamo a bomba sui temi di questo programma, la decontribuzione l'anno scorso. Poi uno può pensare che fosse gli 80 euro, può pensare che fosse sbagliato o giusto. Noi abbiamo sostenuto che gli 80 euro più che andare lì devono essere diventare quelle somme, diventare riduzione del carico fiscale, del cuneo fiscale, quindi del carico fiscale per chi lavora rispetto a quanto costa l'azienda. Tutto quello che volete, ma c'era stato una partenza con delle scelte, alcune uno può apprezzare, altre no, forte. La sensazione, e lo dice bene il Sole 24 Ore oggi, è che vi sia stato un rallentamento forte del processo di implementazione delle leggi, pensate alla spending review, pensate anche alla riforma della pubblica amministrazione, e tutto sia stato assorbito dalla riforma costituzionale da una parte e riforma elettorale dall'altro, cioè che ormai il governo non parli d'altro, e poi di mezzo anche l'emergenza banche. Chiedo conferma a Guido Gentili, che oggi firma il commento in prima pagina del Sole 24 Ore, di cui è editorialista. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Allora, il Sole, giustamente, il quotidiano cita i casi specifici, no? I vari disegni di legge sul DDL concorrenza, il Jobs Act per gli autonomi, l'agricoltura, il collegato all'agricoltura, dove ci sono tutti i decreti, 990 giorni, anche lì leggi di bilancio unificate, spending review strutturale, sono solo 74 giorni. Però io invito tutti a leggersi Sole 24 Ore per capire quali leggi sono ancora ferme. L'accordo sulla prescrizione nel DDL penale l'ha un po' accelerato, l'RC di medici e infermieri sulla sanità invece non ha ancora un'intesa politica, per quello che riguarda i nuovi ordini professionali, anche qui sulla sanità è da 2 anni che si attende una riforma. Il reddito di inclusione è da 160 giorni che aspetta conferme. Ma al di là di questo, il punto che tu sottolinei, Guido, è forse altro. Si è rallentata la spinta, diciamo così, riformista? Ma direi che bisogna distinguere tra le iniziative del governo e quelle che passano sotto il nome delle riforme Renzi, per esempio il Jobs Act, faccio un esempio. Ora, la legge quella l'abbiamo avuta, abbiamo avuto anche i decreti delegati, mancano però una settantina di regolamenti. Questo è un caso in cui abbiamo una riforma fatta, che viene data per fatta anche a livello europeo, dai mercati internazionali, sappiamo come è stata gradita, però sappiamo anche che mancano 70 ancora regolamenti di attuazione. E credo che questo sia un problema che appunto riguarda la sala macchine del governo, che da questo punto di vista non gira come dovrebbe. Poi c'è tutta una serie di quelli che hai ricordato tu all'inizio, ad esempio il disegno di legge che riguarda la sanità e il rischio clinico, che attende da 3 anni, e qui non c'entra, diciamo, il governo, qui c'entra un lavoro farraginoso del Parlamento, delle Camere, che in parte questo potrà essere corretto, diciamo, se passerà il referendum costituzionale che prevede la fine del bicameralismo paritario perfetto tra Camera e Senato, e quindi avremo un cammino più spedito, e quindi da questo punto di vista possiamo attendere qualche risultato migliore. Però anche su questo terreno bisogna stare attenti, perché ad esempio nel caso che ricordavi tu del disegno di legge concorrenza, che noi aspettiamo da tanto tempo e che meritoriamente, devo dire, il governo aveva fatto per la prima volta su indicazione dell'antitrust nel febbraio del 2015, perché fino allora era rimasta lettera morta questa disposizione. Ora aspettiamo, e continua questo ping pong tra Camera e Senato, ma dipende anche dalle condizioni politiche. Ad esempio, nei giorni scorsi sappiamo che l'ex presidente del Senato Renato Schifani ha lasciato l'NCD, il nuovo centrodestra di Alfano, e questo ha creato delle tensioni al centro dello schieramento politico che sorregge la maggioranza, e questo ha determinato, diciamo, delle sfasature parlamentari. Quindi è un discorso molto complesso. Il risultato complessivo è che comunque siamo indietro. Allora, sì, su questo vedo anche molti messaggi. Fai bene a ricordare che ci sono iniziative di carattere governativo e iniziative invece che hanno un problema parlamentare, ed è vero. Sappiamo anche che il diavolo si nasconde tra le pieghe. Da noi le pieghe si chiamano decreti attuativi, Guido, per cui tu, esatto, hai la legge, poi i decreti attuativi la devono mettere in pratica, cioè tu hai fatto la riforma ma poi senza decreti attuativi non te ne fai nulla, e lì iniziano a incagliarsi le cose. Ed è vero che, insomma, va distinto tra un passaggio e un altro. Però dopo il metodo della pubblicità vorrei capire questo, inserendo il tema delle riforme in un tema un po' più ampio: non è che il governo Renzi stia rischiando, un governo attentissimo alla comunicazione che fa, alla narrazione che fa, stia andando fuori asse con le esigenze del paese? Mi spiego. Noi abbiamo commentato la settimana scorsa dei dati su produzione industriale ordinativi, prima, e prima ancora con l'inciso su di Confindustria, e prima ancora i dati del Fondo Monetario, tutti sono orientati nel dire che quest'anno, se va bene, facciamo lo 0,8, forse faremo lo 0,6 di crescita. e quindi sarà un altro anno in cui la crescita è modesta, modestissima, dopo l'anno scorso che ha fatto più 0,8 nel finale. Ora, il Paese questa cosa la sente molto bene, ma se il governo continua a dire, a giocare come se adesso questo dovesse essere l'anno da ripresa, si crea uno scollamento. Se poi ti occupi di altre cose e non di riforme economiche, lo scollamento aumenta. Cioè la sensazione è che se tu rallenti in questo momento per grandi progetti di riforma costituzionale, legge elettorale e le iniziative che hanno a che fare con l'economia poi si fermano, tu possa aumentare ulteriormente quella che è la non comprensione con la situazione che altri italiani vedono. La risposta, per favore, dopo il meteo. Focus Economia. Allora, Guido Gentili, proprio perché l'economia non sta crescendo come vorremmo, non è colpa del governo, l'economia non cresce per decreto legge, ma a prendere atto che il rallentamento è in atto, quindi quest'anno sarà un altro 0,8 se va bene, e B, capire che adesso le riforme di carattere economico, quelle per rendere più produttivo e più competitivo questo paese, meno zavorrato da oneri burocratici oltre che fiscali, non possono più essere rimandabili, non rischia di essere l'elemento dello scollamento tra quello che vive, diciamo, l'opinione pubblica e quello che invece è prioritario per il governo? Ma certamente questo è il problema principe di questa stagione così incerta. Io credo che il peccato originale sia stato da parte del Presidente del Consiglio di caricare con una valenza politica molto forte il risultato del referendum costituzionale. Questo ha polarizzato anche l'attenzione del fronte politico, che è contrario, nettamente contrario al Presidente del Consiglio Renzi, e si è scatenata, diciamo, una battaglia tra il no e il sì, che va ben al di là purtroppo di un ragionamento nel merito di che cosa andiamo a cambiare e che cosa non andiamo a cambiare. E purtroppo per il Paese la crescita è modestissima. Siamo alle soglie del ritorno, credo che questo verrà certificato il 12 di agosto quando l'Istat comunicherà i dati sul secondo trimestre del 2016. Siamo alle soglie di una crescita a 0 virgola, poi sarà 0,9, sarà 0,8, sarà 0,7, però insomma questa è la situazione ed è ancora un tasso di crescita che è tra i più bassi in assoluto in Europa. E quindi questo è il problema che ha di fronte il governo, che ha la necessità di rilanciare l'economia, quindi in un contesto che favorisca la crescita, meno oneri burocratici abbiamo detto, più liberalizzazioni, più privatizzazioni e soprattutto una manovra fiscale degna di questo nome. Le risorse sono scarse, il debito pubblico purtroppo non accenna a diminuire, si dice che è sotto controllo, ma insomma dobbiamo farlo scendere. E quindi questo è il grande puzzle che ci aspetta alla ripresa di settembre, e credo che su questo il governo ha la possibilità adesso di diciamo, cambiare rotta e insistere su una politica, tornare con forza sui temi della politica economica per mettere a punto una legge di stabilità che riesca a rilanciare il Paese. Se non fa questo, o se si perde anche di nuovo con una politica, chiamiamola così, quella dei bonus, io credo che davvero perde un'occasione storica e ovviamente il quadro politico ne risentirà e avremo diciamo, una stagione di scontri, sì, perché, veramente feroci. Perché non c'è niente di peggio di quando un governo in carica dà la sensazione, allora, tutti sbagliamo nella vita, poi non è che un governo possa fare misure che piacciono a tutti, però quando dai la sensazione di non essere più collegato con il Paese, io ricordo il famoso Berlusconi quando disse in piena crisi i ristoranti sono pieni, così, e lì diede la sensazione di non aver capito che cosa stava succedendo. Ora, se tu continui a impegnarti a pensare che tutto il tema sia, diciamo, la riforma costituzionale e l'Italicum, e non prendi atto che rispetto all'1.3 1.2 che dovevamo fare siamo già a metà anno e siamo già scesi lo 0.8 a 0.6, e quindi non prendi atto che c'è una ripresa che era già bassa ma sarà quasi della metà e che comunque più bassa del resto d'Europa, allora lì dà la sensazione di non essere più di non sapere più che cosa sta succedendo fuori dalle tue stanze. Poi Guido, a questo punto anche aver legato l'esito del referendum a se stessi, oltre che distraente, è un po' la corazzata Potemkin per Fantozzi, nel senso che adesso non c'è nessun motivo per farlo, ma quello ci potrebbe troppo lontano. Secondo te, visto che adesso dovrà occuparsi degli stress test, la Monte dei Paschi, cosa fare del Monte dei Paschi dopo gli stress test, ma che cosa dovrebbe annunciare Renzi e il governo, quindi Padoan, da settembre in poi? Perché io temo che lì tutta la battaglia sarà sul quesito referendario. Questo è il grande rischio che abbiamo, io l'ho sempre sottolineato, di questo incrocio pericoloso che avremmo avuto tra la data del referendum e la messa a punto della legge di stabilità. E questo, diciamo, porta da un lato a provare a confezionare dei provvedimenti che diciamo, aumentino i consensi per il referendum, e questo non è una buona cosa. Perché il confronto ovviamente anche tra maggioranza e opposizione perde le caratteristiche di un confronto nel merito delle cose da fare e si sposta tutto su Renzi sì, Renzi no, e questo non ne abbiamo francamente bisogno. Abbiamo bisogno invece di una manovra forte che secondo me dal punto di vista fiscale è l'unica che potrebbe dare una scossa a questo paese. E quindi bisogna stare attenti, perché noi partiamo innanzitutto al dover disinnescare 15 miliardi di clausole di salvaguardia fiscali, cioè gli aumenti dell'IVA. Allora forse sarà il caso di ragionare, forse non interveniamo per disinnescare totalmente questo e ci teniamo delle risorse in grado per abbassare per esempio il fisco sul lavoro, per consentire alle aziende di essere più competitive e contemporaneamente ai dipendenti di avere delle buste paga in grado, diciamo, anche di sostenere la domanda interna, che è quella che manca. Insomma, dobbiamo dare una scossa a questo paese e credo che invece sarebbe un errore tragico continuare sulla strada di spezzettare tutti i vari provvedimenti per cercare di accrescere i consensi per questa o quella categoria in vista del risultato del referendum. Credo che sarebbe veramente un errore tragico. Sì, io temo che sarà ormai così, nel senso che il referendum è già legato a questo punto al giudizio sul Premier, e questo per colpa e responsabilità anche del Premier stesso. Però tu ricordavi giustamente le clausole di salvaguardia, lì bisognerebbe invece avere la forza di affrontare il tema da un lato delle clausole di salvaguardia, perché se devi anche garantire questi 15 miliardi, cioè, la vedo dura, perché dovresti fare una manovra molto forte. Chi mi chiede cosa farebbe lei, ma io non faccio il ministro dell'economia, ma è chiaro, da quello che vediamo, una manovra molto forte e significativa sulla pressione fiscale, che è l'unica cosa che il governo può fare, neanche può fare ripartire l'economia per decreto, quindi cuneo fiscale, più soldi a chi lavora in busta paga e anche possibilmente meno costi per le imprese, ma oltre, unito a questo, anche un accordo con l'Europa per gli investimenti di carattere europeo. Non ne usciamo se non torniamo a fare degli investimenti di infrastrutturali seri nei prossimi anni che riattivino gli investimenti privati. Comunque, grazie intanto a Guido Gentili. Noi cambiamo tema, tra virgolette, perché restiamo sul tema dei prezzi e dell'economia, ma torniamo a occuparci di grano o frumento, come dicono giustamente i miei ascoltatori, perché prima ho detto si distingue tra grano duro e grano tenero. Comunque, continuano le tensioni perché il prezzo è sceso ai valori di 30 anni fa. Just hope it ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, vedo i commenti di alcuni ascoltatori che dicono: ma insomma, l'ho già sentita ogni volta. Sì, il problema è che non è che siccome una cosa l'abbiamo già detto, l'abbiamo già discusso, smetti di esistere solo per questo motivo. Se il tema è tutto sullo sfondo e se c'è a nostro avviso una sterzata che deve essere data non solo con le riforme ma con iniziative forti di carattere economico, perché ripeto, questo rischia di essere, ma non per colpa di Renzi, non Renzi, Era rallentata l'economia a livello mondiale, Cina in primis, la Brexit produrrà un rallentamento. Non... Il problema è prendere atto che il 2016 non sarà l'anno della svolta, ormai lo sappiamo per certo, abbiamo girato la boa di metà anno e sarà, se tutto va bene, un anno identico all'anno scorso, e muoversi di conseguenza. Allora, andiamo invece da Ivano Vacondio, presidente di Italmopa, che è l'associazione industriale Mugnai d'Italia, tra l'altro aderite anche a Confindustria e Federalimentare, e voi rappresentate l'industria molitoria nazionale. Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Finalmente possiamo dire anche noi la nostra dopo una campagna stampa denigratoria fastidiosa. Un attimo, mi faccia fare la domanda, Vacondio. Va con Dio, ma mi faccia fare la domanda. Allora, 358 mulini che lavorano oltre 10 milioni di tonnellate di frumento e nel complesso assorbono 4.600 addetti. 3 miliardi 800 milioni di euro il fatturato dell'industria di chi trasforma il frumento in farina, posso dirlo così? Sì, benissimo, bravissimo. Sì. E voi, in sta guerra del grano, per cui i produttori e gli agricoltori dicono: ragazzi, siamo al valore di prezzo di 30 anni fa. Tra l'altro, ci raccontava il presidente Confagricoltura come la cosa sgradevole sia anche il fatto che viene comprato grano all'estero a un prezzo più alto, mentre nel latte il prezzo era più basso, ma un prezzo più alto. Quando poi però ci si pasce, si usa il simbolo grano italiano per fare marketing nei prodotti, ma non si riconosce un valore più alto al grano italiano, e i consumatori da un lato lamentano invece che sostanzialmente il prezzo della pasta non sia aumentato del 68% dal 2007 ad oggi, e il prezzo di un pacco di pasta moltiplica per 8 volte come prezzo dal grano allo scaffale. Tra l'altro vedo che le importazioni di grano duro e tenero in Italia hanno fatto più 14% nei primi 3 mesi dell'anno, sono quadruplicate dall'Ucraina, più 315%, è il terzo fornitore di grano dell'Italia per pane, mentre il grano duro da pasta è primato, spetta al Canada, che ha fatto più 4%. Allora, il grano duro per la pasta ormai viene pagato anche 18 centesimi al chilo agli agricoltori italiani, e quello tenero per il pane 16 centesimi. Voi vi sentite vittima o carnefice? Ma insomma, guardi, noi siamo vittime esattamente come il mondo agricolo, che il quale sono solidale. Io conosco il dottor Guidi, devo dire che è una persona squisita, ma fa il suo mestiere e quindi fa il sindacalista e tende sempre a, come devo dire, a colorare, fa il presidente con Confagricoltura, a secondo degli interessi, pur essendo una persona estremamente intelligente. Io dico, noi siamo vittime, perché capirà che questa riduzione dei prezzi, e mi preme dirlo, il frumento, lo dico piano ma con forza, il prezzo del frumento è crollato in tutto il mondo. Come si fa a dire che il grano italiano è diminuito di prezzo, è crollato, che hanno ragione? Il prezzo del frumento è crollato in tutto il mondo, perché il prezzo è un prezzo internazionale esattamente come il petrolio è calato del 50-60%, il frumento è calato del 50-60-40% a seconda delle varietà. Quindi il problema che noi siamo il capro espiatorio è falso, e chi lo dice è un peccato, perché spesso chi lo dice lo sa che è falso, ma lo dice ugualmente, perché questo, siamo un paese dove la demagogia e il populismo paga, e quindi qui c'è un problema sindacale di battaglia per spartirsi le tessere. Quindi questa è la grande verità. Io capisco di dire una cosa pesante, ma è quello che penso, e abbiamo poche occasioni noi di poter esprimere il nostro parere. Queste cose l'ha detto anche il ministro Allora, Martina. Prima domanda, mi scusi, perché è crollato il prezzo del grano a livello mondiale? Beh, perché in un libero mercato c'è una regola che è sacrosanta al di là della politica. La legge della domanda e dell'offerta. I consumi sono in calo e le produzioni sono in forte aumento. Abbiamo gli stock mondiali di cereali nel suo insieme, ma particolarmente di grano, più alte degli ultimi anni. Abbiamo degli stock di riporto, si dice così, un termine tecnico, comunque grano che non è stato collettato dell'annato passato, perché vede, il grano ha un problema, che se le automobili non si vendono si riempiono i piazzali in attesa di poterle vendere. Il grano non si può mettere nei piazzali, deve essere consumato entro l'anno granario, che va da giugno, quindi noi ci siamo trovati in una offerta esagerata rispetto ad una domanda che è in calo. Ma qui poi si innesca un ragionamento anche comprensibile, se mi permette un minuto, sì, che noi siamo obbligati a importare per delle ragioni di quantità, perché ne consumiamo 70 milioni, ne produciamo 70 milioni fratello duro, ce ne servono 110 per soddisfare l'esigenza dell'industria molitoria. Quindi noi siamo obbligati per quantità a importare, ma anche per qualità. Come dice Guidi, se noi importiamo del grano che costa di più, o siamo fessi, ma non credo, perché il nostro mestiere, insomma, bene o male lo sappiamo fare, oppure vale di più perché ha più qualità. Per fare determinate produzioni, soprattutto nel campo della pasta lunga, ma anche nei prodotti dolciari, abbiamo bisogno di avere del grano che abbia caratteristiche che abbiano la qualità per poter produrre bene. Però mi scusi, per i nostri io clienti. Ho capito tutto, infatti una cosa non capisco. Un dato di fatto è che però nel frattempo il prezzo della pasta e del pane... Lo sapevo io. Fa con Dio. No, giusto, le chiedo scusa. Non vuole che parliamo del mio Hellas che è in B. Allora, dico, il prezzo della pasta e del pane è aumentato. Allora, Qui si pone il problema che abbiamo affrontato molte volte con la frutta, e anche lì gli agricoltori lamentavano l'aumento, i 7-8 volte di aumento delle zucchine, che arrivavano a 1500 volte il prezzo originario sullo scaffale. Non c'è un problema anche di filiera, oppure mi dice no, è tutta efficiente? Prego. Allora, io credo, noi siamo fautori della filiera, siamo consapevoli, abbiamo detto, io personalmente a nome della categoria ho detto al Ministro che noi siamo assolutamente disponibili a metterci attorno a un tavolo e discutere di filiera. Però veda, intanto noi non facciamo pasta e non facciamo pane, e quindi non posso parlare per altri, posso solo dire che siccome questi sono i nostri clienti, io di pastai che vadano gonfie vele e che siano aziende, come devo dire, che guadagnano tanti soldi, non ne conosco nessuno, così come i panettieri che sono in grande difficoltà, della categoria più in difficoltà. Quali sono le ragioni? Bisognerà chiederle a loro, non a noi. Noi la farina l'abbiamo diminuita nell'ordine del 20% rispetto al 2013, c'avevo qui il dato e me l'ero preparato, meno 26%. Quindi i nostri fatturati sono calati. Quant'è il vostro margine su quello che lavorate? L'1%, l'1,5%. Beh, questa tutta l'industria di trasformazione, di prima trasformazione di prodotti agricoli viaggia così, che sia pomodoro, che sia zucchero, purtroppo le marginalità sono così risicate, ma è sempre stato così, non è solo da adesso. La cosa grave adesso è che questa riduzione dei prezzi della materia prima, che incide il 70% sul prezzo di cessione e di vendita, diminuiscono i fatturati, e quindi diminuire i fatturati a parità di volumi non è il massimo, però questo è un problema nostro, quindi che dobbiamo risolvere tra di noi. Però mi preme una cosa, io ho detto al ministro, sono 20 anni che non si fa una politica nei confronti dei cereali, solita frase fatta, ma questa è la verità, non abbiamo neanche le capacità di stoccaggio di tutto il frumento. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di produrre 2 milioni di tonnellate in più, non abbiamo i siti per nascondere il grano. Quindi una delle ragioni per le quali il mondo agricolo si lamenta, e qui gli do ragione, è che c'è una pressione alla vendita enorme, perché non ci sono i posti dove nascondere il grano, cioè non ci sono capacità di stoccaggio, non ci sono silos di stoccaggio. Quindi quest'anno che abbiamo avuto adesso io il governo lo critichiamo, ma non è che il governo che deve fare i silos, chi è che li deve fare questi silos? Sarà il privato, no? Che ha interesse. Diciamo che gli altri paesi della Comunità Europea hanno utilizzato tutte le risorse della comunità sui PSR, sui piani di sviluppo regionali, che è uno strumento micidiale degli investimenti, e noi invece spesso questi fondi li abbiamo destinati a ripristinare, come devo dire, dei buchi di qualche azienda. No, io gliel'ho detto perché abbiamo bisogno di fare delle strutture che siano moderne, ma soprattutto, e qui farò arrabbiare qualcuno, abbiamo bisogno di fare la filiera corta. In un momento in cui le marginalità sono così basse per noi e per il mondo agricolo, abbiamo bisogno che il mondo agricolo salti gli intermediari, quindi sia nelle condizioni di conferire il loro grano direttamente alla prima trasformazione. Questo permetterebbe di avere qualche marginalità in più. Comunque, senta Barisoni, qui il problema è che questo è un settore in grande crisi, a cominciare dal mondo agricolo con il quale sono solidale, siamo disponibili a metterci attorno a un tavolo, ma non è sufficiente dire se io faccio un prodotto tutto italiano per forza riesco a realizzare un prezzo superiore, devo farlo tutto italiano ma soprattutto buono, questo è il problema, quindi abbiamo un grande problema di qualità che paesi come il Canada, okay, o come gli Stati Uniti che producono grani con proteine 14-15 che noi non siamo in grado, siamo obbligati a importarli, pagarlo di più per integrare il nostro grano. Abbiamo bisogno di fare uno sforzo in più. Io l'adoro perché se tutti fossero come lei io lavorerei un decimo, perché si fa le domande, si dà le risposte, si polemizza con se stesso. Ho capito tutto. Dico solo, ho capito anche che se crollano i prezzi internazionali non si può sperare che i prezzi nostri non seguano su un mercato come quello delle commodities, in questo caso cereicole e alimentari, che è veramente mondiale. Ho capito che è stato un problema, non so se solo del governo o anche degli operatori che magari hanno chiesto ai vari enti locali del grano che riusciamo a stoccare. Mi resta un dubbio, ma non lei ha mai risposto, perché dice non è il suo settore. La filiera, voi la auspicate corta, però la filiera in questo paese è sempre così, cioè la parte vantaggiosa della filiera è quella che arriva vicino allo scaffale, vale per l'ortofrutta, vale anche per il frumento. Non dico che, se lei mi conferma che l'1,5% è il vostro margine, non dico che siete voi, però evidentemente la parte alta, cioè quando l'elemento viene prodotto, è sempre quella che ne soffre. L'abbiamo visto nel latte, l'abbiamo visto nell'ortofrutta, l'abbiamo visto anche adesso nel grano. Grazie comunque, perché ci tenevo a far sentire i mugnai. Ma un mulino quanta farina produce? Io sono presidente della Mulino Industriale di Modena, noi facciamo 1 milione di quintali all'anno e quindi produciamo 4.000 quintali al giorno, maciniamo 4.000 quintali al giorno di grano, quindi se andrà conto insomma che è un bel numero, se non facessimo dei numeri con le marginalità che ci sono, addio investimenti, insomma purtroppo siamo obbligati a fare grandi numeri per poter ottenere qualcosa in termini di risorse per i finanziamenti, per gli investimenti. Però io le chiedo scusa se devo lanciare il traffico, però prego. No, sono stato un po' invadente, però tenga conto che noi subiamo un'aggressione da parte dei media e non abbiamo mai la possibilità di replicare, perché siamo una realtà importante ma dimensionalmente, numericamente piccola, e in questo paese quando si è numericamente piccoli, se anche si ha delle ragioni, si è sempre messi da parte. Ma questo vale mica solo per noi, vale in generale. Guardi che io non sono Banderas, stiamo parlando di mulini e quelli veri, e quindi volentieri vi invito, la rinvito anche in trasmissione quando vuole. Grazie al presidente di Italmopa, Ivano Vacondio, era importante sentire anche loro. Andiamo sul traffico però. Focus Economia. Allora, dove il grano, in questo caso invece inteso come denaro e non come cereale, non manca è per l'information technology. Perché? Perché oggi portiamo a casa un'altra operazione monstra, 5 miliardi di dollari pagati dal gruppo di TLC, di telecomunicazioni statunitense Verizon, per comprarsi Yahoo. Allora, in studio con me c'è il nostro Enrico Pagliarini, conduttore 2024. Buonasera Enrico. Buonasera. Nonché giornalista di questa radio, ci mancherebbe. Anche perché sono membro del CDR, se non lo dico vado nei casini sindacali. Allora, Pagliarini, da questo punto di vista, poi il resto lo affrontiamo dopo il GR24, ma è vero che gli cambierà anche nome? Sì, sicuramente finisce una storia di un sito internet mitico. Yahoo non si chiamerà, cioè tutte le attività di Yahoo confluiranno dentro ad una società nella quale Verizon mette da una parte Yahoo e dall'altra parte AOL, American Online, un'altra destinazione mitica della rete internet che Verizon ha acquistato lo scorso anno per 4 miliardi e rotti. Stiamo parlando effettivamente di tanti soldi, però vorrei ricordare che l'ultima operazione che abbiamo commentato, LinkedIn che si è comprata, Microsoft che si è comprata LinkedIn, l'ha pagata 26 miliardi. Quindi qui stiamo parlando, insomma. No, la cosa che mi impressiona da ignorante totale anche in questa materia è che scompaia uno dei nomi simbolo. Io ho visto che però oggi hanno fatto fuori il ministro legato di Ericsson, so che Nokia. Le cose cambiano velocemente. Sì, in quel mondo, nel vostro mondo, stavo per dire. Nel mondo di tutti, Le cose

questi siti internet di Yahoo, e qui bisognerà vedere appunto che nome prenderanno, con American Online, punta a valorizzare tutte queste persone che vanno sui siti internet per fargli vedere più pubblicità. Allora, è la quinta destinazione al mondo per traffico, però un dato su cui probabilmente Verizon dovrà lavorare è che la raccolta pubblicitaria di Yahoo vale, è la settima al mondo e vale solo l'1,5%. Se la confrontiamo con quella di Google e Facebook, che arrivano quasi al 50%, stiamo parlando del 43% di raccolta pubblicitaria nel mondo. Quindi la strada da fare per cercare di diventare numero 3 al mondo, soprattutto pensando che ci sono colossi cinesi che proprio grazie al fatto che sono in Cina possono contare su un miliardo circa di persone che vanno a visitare i siti internet, sicuramente la strada non è facile, però c'è un buon margine di crescita e sicuramente su questo si punta. Allora, mi chiedono alcuni ascoltatori che fine farà l'account di mail che hanno da decine di anni, da vent'anni, allora, yahoo.it. molto probabilmente non cambierà, perché difficilmente tu cosa fai? Fai cambiare a milioni di persone un account di posta elettronica, saresti stupido. L'amministratore delegato di Yahoo, Marissa Mayer, famosa, amministratore delegato. Ah, c'è tutta una storia su questo. Ha detto: io ho intenzione di restare. Lei fu quella che comprò, tra l'altro, il sito Tumblr. Che sì, allora Marissa Mayer è pagandolo €1.1 miliardi. Allora, Marissa Mayer è stata assunta, è una ex manager di Google, è stata assunta nel 2012 proprio tentando di rimettere in carreggiata Yahoo. Però tutte le operazioni sono di fatto fallite, non è mai riuscita a rimettere in carreggiata Yahoo. Tant'è che proprio sulla spinta e sulla pressione degli azionisti ha dovuto prendere questa decisione di mettere in vendita. E se ne parla da febbraio, perché da febbraio... Ma non è che scompaia tutta Yahoo, nel senso che resterà, se ho ben visto, la partecipazione del colosso cinese Alibaba e quella in Yahoo Japan. Valgono 31 miliardi una e 9 miliardi l'altra. Sì, circa 40 miliardi. Queste due partecipazioni sono escluse dalla vendita. La più importante, la principale, è la partecipazione azionaria di Yahoo in Alibaba. Pensa che è stata acquistata nel 2005, forse diciamo che nella storia di Yahoo è stata l'operazione di maggiore successo, è stata acquistata nel 2005, quando Alibaba non era il colosso che conosciamo oggi, per 1 miliardo, e oggi appunto ne vale 31. Esatto. Però quella è esclusa dalla vendita, vedremo poi i fondi che cosa faranno e cosa decideranno. Un'ultima nota la devo dare su prima il commento che facciamo sulla velocità in cui cambiano i protagonisti dell'information technology in senso lato. Sì. Citavo Ericsson, citavo Motorola, Nokia. Visto che gli ascoltatori scrivono, non è che siano alcuni scomparsi e basta. No, si sono alcuni hanno mutato pelle, un po' come IBM ha smesso di fare computer. Questo era il mio ragionamento. Cioè, se mi aveste detto che Nokia non si sarebbe più occupata Di telefonini, non vi avrei creduto 10 anni fa. Adesso Nokia cosa fa? Reti? Allora, Nokia si è comprata Alcatel-Lucent ed è diventato il player principale al mondo delle infrastrutture di rete, quindi le antenne che collegano gli smartphone e i cellulari, anche tutte le infrastrutture di rete di internet, è diventato insomma il numero uno grazie all'acquisizione. L'altro grande player è Ericsson, e poi c'è Huawei, la cinese Huawei, poi c'è ZTE, insomma tutta una serie di altri brand in giro per il mondo. Però Nokia esiste ancora. Tra l'altro Nokia ha anche annunciato che tornerà sul mercato degli smartphone, però ovviamente da zero, cioè si riparte da zero, quindi vedremo quando usciranno i primi smartphone Nokia. Tornerà, approderà forse, più corretti, visto che uno smartphone Nokia non l'ha mai fatto. Allora qui c'è tutto un dibattito, nel senso che... No, beccato in flagrante Pagliarini, sono troppo soddisfatto. No, ho ragione io. Hai detto tornerà, invece sbarcherà nel mercato degli smartphone. Grazie Enrico Pagliarini. Torniamo sopra questo. E andiamo adesso alla borsa. Borsa che oggi si chiama soprattutto Monte dei Paschi, ma vi arriveremo fra un attimo. Per il resto Azimut più 3%, Moncler più 2,5%, Campari più 1,70%, Steam Microelectronics più 1,5%, A2A più 1,30% come Ferragamo, Unipolsai più 1,20%, Luxottica più 1,1%. Al di là del Monte dei Paschi che ha perso l'8,40%, Saipem meno 5,20%, CNH Industrial meno 3%, Popolare di Milano meno 2,80, Pop Emilia Romagna meno 2,70, Intesa San Paolo meno 1,80, Banco Popolare meno 1,60, Eni perde l'1,40%, Tenaris l'1,30%, Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Guido, al di là del caso Monte dei Paschi, adesso ne parleremo, insomma, alcuni pensano che cederà come soluzione di mercato i crediti e poi porterà un aumento di capitale, e qui il ragionamento si fa su quanto dovrebbe essere grande l'aumento di capitale, tra i 3 e i 4 miliardi, vabbè. Però abbiamo visto calare parecchio oggi Saipem e anche Eni non passarsela bene. Non ho dato il prezzo del petrolio, il prezzo del petrolio che è sceso sotto i $50 ormai non da oggi e si è collocato a metà seduta per quello che riguarda il Brent a 43, ho visto prima il dato, $43.60 per quello che riguarda il WTI. Guido. Sì, oggi questo calo del prezzo del petrolio, che è sceso sostanzialmente quasi di un dollaro al barile rispetto a venerdì, ha penalizzato un po' tutti i titoli del comparto. Si tratta di un calo che, a differenza di quello che avevamo visto altre volte, non è solo legato alla situazione economica, ma è proprio legato a un fattore di sovrapproduzione di petrolio che sta iniziando a preoccupare gli analisti, perché le scorte aumentano e questo non è un buon segnale appunto per il greggio, per il suo prezzo. Oggi un po' tutti i titoli in Europa legati al prezzo del petrolio sono scesi. In Italia lo abbiamo visto molto bene con Saipem, che ha ceduto il 5,2%, perché è quello più legato anche ai nuovi sviluppi, ai nuovi progetti di estrazione petrolifera, ma anche Eni ha ceduto l'1,41%, Tenaris l'1,30%, e nel resto d'Europa abbiamo assistito a cali simili. Allora, una nota, un inciso, stavo scherzando con Pagliarini, Pagliarini ha sempre ragione perché capisce tutto di Information Technology, è il nostro esperto, oltre che capo servizio. Con il programma 2024 io non ci capisco niente, perché mi state massacrando dicendo guardi che Nokia in effetti uno smartphone l'aveva fatto, qualcuno mi scrive Symbian, c'erano le app, tutto, era uno dei primi smartphone, i Lumia 20 Windows Mobile, oh, ragazzi stavo scherzando, siccome Paglianetto tornerà negli smartphone adesso, Nokia tornerà, io ho detto solo sbarcherà. Andiamo avanti con Guido Maurino. Invece RCS, oggi la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti senza titolo di reato e senza indagati sull'offerta pubblica lanciata da Cairo Communication, affidata ai PM Baggio, Clerico e Civardi, avviata in seguito all'esposto presentato dai legali DMH. Il titolo oggi, ma soprattutto Italia Online. Sì, allora, per quello che riguarda RCS ha ceduto l'1,4%, non risentendo particolarmente di questa notizia, anche perché appunto si tratta di una specie di indagine conoscitiva senza che ci siano indagati, per cui è tutta una fase molto preliminare. Per quello che riguarda Italia Online, ha guadagnato il 24,42%, lo ricordiamo, Italia Online è la società che ha inglobato Seat Pagine Gialle. Seat Pagine Gialle è stata a lungo nella blacklist della Consob, avendo una situazione finanziaria molto precaria, per cui la Consob gli richiedeva una sorta di informazioni aggiuntive da dare al mercato perché fosse costantemente aggiornato. Dopo questa operazione, la fusione fra Italia Online e Seat Pagine Gialle è avvenuta nei mesi scorsi, la società non solo non ha più debito, ma addirittura ha cassa per una settantina di milioni di euro, quindi non si trova più in una situazione di diciamo stress finanziario, sono venute meno le ragioni che avevano portato Consob a chiedere informazioni aggiuntive. Si tratta, è vero, di un passaggio formale, in qualche modo quasi dovuto, ma rispetto a questa notizia il titolo ha guadagnato molto oggi. Ancora andiamo su altri titoli, Terni Energia più 10, Cementir più 6%, e ancora De'Longhi più 4,80%, Fronte Opposto oltre a Monte dei Paschi, Investimenti e Sviluppo meno 9,70%, Energy Lab meno 8%, Agronomia meno 7,3%, grazie a Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore. In generale gli indici hanno perso, a Milano lo 0,50%, Parigi più 0,16, Francoforte più 0,50, Londra meno 0,30, Dow Jones meno 0,60%, traffico e poi gli stress test che saranno pubblicati la sera di venerdì e soprattutto il Monte dei Paschi di Siena. Focus Economia. Oh, Allora, sono 53 le banche europee, 5 di quali quelle italiane, rappresentano il 70% del sistema bancario dell'Unione Europea, che sono state sottoposte a stress test. E vanno a valutare come terrebbe il patrimonio, la tenuta patrimoniale di queste banche con due scenari macroeconomici, uno di base e uno avverso. In quello avverso, cioè la peggiore delle sfighe possibili, vi sarebbe un calo drammatico del PIL nel 2016-2018, un forte taglio dei titoli governativi come valore nominale, un crollo cumulato dei prezzi degli immobili residenziali e commerciali, e si va a vedere cosa succederebbe alle banche. Allora, dico subito che da quello che sta uscendo, le banche italiane, Intesa San Paolo, dovrebbe aver raggiunto anche un target tra i massimi a livello delle big europee. Banco Popolare e UbiBanca sarebbero comunque nella fascia elevata della resistenza anche allo scenario peggiore. Unicredit sarebbe in una zona medio-alta. Vi sarebbero, lo vedremo, problemucci per qualche cassa di risparmio tedesca e anche Deutsche Bank, ma soprattutto... Il problema da noi si porrebbe sul Monte dei Paschi di Siena, si porrebbe a livello sotto il livello minimo, mentre Monte dei Paschi sarebbe mentre l'Intesa sarebbe addirittura due volte sopra il livello minimo. Professor Donato Masciandaro, che è editorialista del Sole 24 Ore ed economista all'Università Bocconi di Milano, buonasera. Grazie dell'invito. Allora, professore, prima domanda, adesso poi andiamo al Monte dei Paschi. È chiaro che oggi, sulle ipotesi che la soluzione sia di carattere privato e non statale, Monte dei Paschi dovrà cedere delle sofferenze, dei crediti non più esigibili, e li dovrà svalutare rispetto a quanto gli ha in bilancio, glielo chiede la BCE, e in 3 anni 10 miliardi in meno. Se li vendi, se li cedi a un livello più basso di quello che li hai messi in bilancio, porti a casa delle perdite e quindi dovrai aumentare il capitale per i criteri contabili tra i 3 e i 4 miliardi. Domanda, ma non stanno uscendo in maniera un po' singolare? Perché tutti aspettiamo formalmente le 22 di venerdì, ma oggi si fanno già i primi ragionamenti, la borsa fa già le prime operazioni. Non era meglio pubblicarli subito? Chiedo. Lo dico in maniera meno cruda rispetto a quello come lo scrivo sul 24 ore, questi stress test sono una pagliacciata. No. Quindi quello che lei dice è corretto, in un mondo ideale questa pagliacciata non dovrebbe neanche esistere. Perché lei sul Sole l'ha chiamato l'inutile esercizio degli stress test dopo la Brexit. Sì. Come le cravatte ho scritto, non servono a niente ma possono... tranquillizzare solo qualcuno che crede apparenze. Che cosa stiamo imparando? Stiamo imparando che c'è una banca toscana che forse ha dei problemi? Lo sappiamo. Che tipo di problemi sono? È una banca non solvente? No, perché se no ci sarebbero le risoluzioni. È una banca scusi, illiquida che crea problemi sistemici? No, perché se no ci sarebbe la possibilità di intervento pubblico. Stiamo semplicemente raccontando una storia che domani o lunedì o quanto sarà creerà una volatilità ingiustificata. Chi è l'unico che ha vantaggio da questa storia? Beh, chi ne parla, forse, e forse l'autorità di vigilanza bancaria, che è assolutamente irresponsabile perché crea volatilità sui mercati senza pagarne anche un prezzo. Quindi lei dice l'EBA? No, poverini, quelli dell'EBA sono... Sa, l'EBA è una... Allora lei ce l'ha direttamente con Draghi? Ma Draghi non c'entra niente, perché la vigilanza europea della BCE non risponde a Draghi. Noi in Europa, lo ricordiamo, sì... Scusi, l'ho interrotto. No, risponde, se non ricordo male, un signore tedesco, perché ne parlammo anche tempo fa, la vigilanza bancaria. Però mi dica una cosa, Masciandaro, adesso io ho capito il suo ragionamento. Lei dice, attenzione, qui non stiamo scoprendo che Monte dei Paschi è insolvente, se no vi sarebbe già il bail-in a portata di mano. Oppure non stiamo scoprendo che Monte dei Paschi ha una situazione drammaticamente eccezionale, perché se no gli accordi europei prevedono... in casi eccezionali, lo ha chiarito bene anche Mario Draghi, l'intervento pubblico. Stiamo solo dicendo che a me sembra la prima follia, se arrivasse l'apocalisse nel senso che appunto crollo congiunto dei valori immobiliari. Io come battuta Mascenaro ho detto che a quel punto il problema non sarebbe più il Monte dei Paschi, sarebbe la tenuta della Repubblica Italiana, perché se arriva un'altra mazzata del genere a quei livelli non so dove andiamo a finire. Ma perché non dirlo prima? Cioè, perché tutti però ci siamo accodati a questi stress test, Mascenaro? Perché abbiamo scimmiottato, perché crediamo di scimmiottare gli Stati Uniti, dove però l'attività di vigilanza è su due livelli. Quando una banca ha davvero dei problemi, ci sono dei test specifici su quella banca, che io ho battezzato per semplicità i crash test. So che una banca ha un problema, allora vado in quella banca e inizio a intervenire su quella banca. Non faccio una farsa per cui degli stress test che dovrebbero darmi solo delle indicazioni in generale sui sistemi bancari diventano un'ordalia sulla singola banca. Abbiamo scimmiottato male un modo di fare degli americani. Ecco, professor Mascenaro, c'è però chi dice che in realtà l'ordalia sul Monte dei Paschi è iniziata quando è stata resa nota la lettera della Banca Centrale Europea al Monte dei Paschi, in cui si diceva: attenzione, devi cedere 10 miliardi di sofferenze bancarie entro 3 anni. Ora, se io ti dico 10 miliardi non 3 anni, sono più o meno 3 miliardi all'anno, e lì parte la speculazione: come farà a venderli in 3 anni, a quanto dovrà svenderli, quindi deprezzare il loro valore in bilancio e portare un aumento di capitale in 3 anni. Non è stata solo sugli stress test. Dottor Barisoni, più di una volta lei ha notato i problemi di comunicazione, così vengono chiamati, della vigilanza europea. Se fosse un privato ci sarebbero gli estremi per il reato di aggiotaggio. Qui siamo di fronte a dei soggetti completamente autoreferenziali, perché abbiamo compiuto il pasticcio di creare una vigilanza completamente autoreferenziale che per eccesso di prudenza, diciamo per pararsi il fondo schiena, non sa far altro che chiedere aumenti di capitale. Questo è il fatto, il resto è purtroppo volatilità sui mercati. Sì, noto con una voluta malizia che però poi queste fughe di notizie riguardano sempre le banche italiane e più deboli, non so come spiegare, cioè io non ho mai letto una fuga di notizie su Deutsche Bank. Perché non avrebbe lo stesso effetto sui mercati, mi scusi se lo interrompo. No, va bene, mi dica. Perché siccome il punto è che la notizia deve fare rumore, allora se avviene su una banca italiana stiamo parlando di una banca che ha uno stato con le finanze deboli e quindi conviene scommettere. Certo. Se invece parliamo di Deutsche Bank, le notizie sui Deutsche Bank ce ne sono state tante in queste settimane, ma non è successo niente. Ma perché non è successo niente? Una, non ci sono state fughe di notizie e lei l'ha rilevato. Due, i mercati non reagiscono, perché tanto che regole europee o no, dietro la Deutsche Bank c'è uno Stato con le finanze sane. Quindi non è un problema di Europa, è un problema di due Stati diversi e una banca viene colpita perché le finanze del suo Stato sono deboli, l'altra no. A me, quando vedo queste cose in Europa, come nel caso della Grecia o delle banche, appunto, viene sempre in mente la Fattoria degli animali di Orwell, dove tutti gli animali erano uguali agli altri, ma alcuni, se non ricordo male era il maiale, erano più uguali di altri. Ecco, mettiamola così, alcune banche sono più uguali di altre, altre sono semplicemente uguali. Nel ringraziare il professor Donato Mascenaro, devo darvi una notizia che le agenzie hanno appena battuto, riguarda la Popolare di Vicenza, perché si è allargato ulteriormente con 3 nuovi indagati l'inchiesta della Procura di Vicenza sul dissesto della Banca Popolare di Vicenza. Nel registro degli indagati compaiono ora, oltre l'ex presidente Zonin e altri 5 manager, anche gli ex consiglieri di amministrazione Roberto Zuccato, che è attuale presidente di Confindustria del Veneto, e Franco Miranda, già leader degli artigiani vicentini, e un funzionario indicato di stendere il bilancio, Massimiliano Pellegrini. Poco fa è arrivata anche una nota di Roberto Zuccato, appunto presidente degli industriali del Veneto, il quale ha detto: ignoro i motivi del mio coinvolgimento, ma sono certo di poter dimostrare la mia completa estraneità, avendo sempre ricoperto il mio ruolo con correttezza e trasparenza. Sono a disposizione della procura per chiarire la mia posizione. E questa è l'ultima notizia, non solo sulle banche, anche di questa puntata. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.